Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Leonardo Maugeri. Buonasera. Leonardo Maugeri, grande esperto di energia, ha scritto il libro Con tutta l'energia possibile. È stato direttore strategia e sviluppo dell'ENI, poi presidente di Polimeri Europa fino a pochi giorni fa. Adesso è negli Stati Uniti per insegnare all'Università di Harvard. Insegnare energia, immagino, dottor Maugeri. Sì, economia e geopolitica dell'energia. Allora, Con tutta l'energia possibile, un libro edito da Sperling e Kufer, è una, diciamo, un'enciclopedia sull'energia attuale e si scopre che di energia c'è bisogno, ma c'è anche bisogno di informazione sull'energia. Quali sono, secondo lei, i punti o i pregiudizi maggiori che bisogna combattere adesso sul fronte dell'informazione energetica, professor Maugeri? Ce ne sono tantissimi. Innanzitutto, quando si parla di energia si fanno tantissimi errori. Io sento ancora oggi confondere l'energia con l'energia elettrica, sento confondere la capacità produttiva con l'energia generata, sento leggende tipo quella della fine del petrolio che si avvicina, piuttosto che il petrolio genera guerre, pure l'idrogeno considerato una fonte di energia primaria. Ecco, pieno di leggende, di errori, c'è una generale ignoranza che poi non contribuisce certamente a migliorare non solo la conoscenza, ma anche a fare scelte politiche sagaci. Ecco, proprio le prime pagine di questo libro sono dedicate agli errori e alle bugie di chi parla di energia, così come a appunto togliere alcuni miti sul fatto che il petrolio stia per finire. Finirà indubbiamente prima o poi, ma probabilmente noi non ci saremo quando finirà, e sul fatto che l'OPEC controlli il mercato del petrolio e così via. A parte gli errori, quali sono le bugie più grandi che si dicono su questo tema? Più che di bugie, perché io non so quanto poi chi dice certe cose sia in cattiva fede, quindi lo dica certe cose a ragion veduta, quindi dica una bugia in senso tecnico, oppure sia pure ignoranza. Nella mia esperienza ho constatato che l'ignoranza prevale sulla bugia. Per esempio, la storia della fine del petrolio si era talmente diffusa, l'idea che fossimo vicini al picco della produzione mondiale, che c'erano persone di grandissimo livello anche che sostenevano con argomentazioni anche tecniche e scientifiche questa cosa. Un professore di Princeton molto famoso arrivò a individuare nel giorno di Halloween del 2005 il momento del picco della produzione petrolifera mondiale, dopodiché sarebbe arrivato il caos perché la produzione mondiale sarebbe calata rapidamente, però era diventata una convinzione talmente diffusa, tant'è che oggi tanti la danno per scontata. Allora, è una bugia o semplicemente ignoranza o semplicemente partigianeria? Molti vorrebbero veder finire il petrolio semplicemente perché pensano che questo accelererebbe la transizione verso un futuro energetico diverso, ma non è così. Ecco, forse un'altra bugia, un altro errore è il fatto che si pensa che le energie cosiddette rinnovabili, che sono certamente benemerite, possano sostituire in breve tempo le energie ricavate da fonti fossili. E questo è un problema puramente di fisica, ancora prima che un problema economico. Le fonti rinnovabili hanno un limite nell'energia, due leggi della fisica, che poi si traducono in due principi, la densità di energia e la densità di potenza, che ti dicono in sostanza che quantità di energia contiene ogni fonte, e questo per semplificare per il pubblico, e quanto spazio è necessario per produrre energia da quella fonte. Ecco, il limite ancora notevole delle fonti rinnovabili è proprio quello che hanno una bassa densità di energia o una bassa densità di potenza, quindi per esempio sono necessari enormi spazi coltivando biomasse per avere minuscole quantità di energia in forma di biocombustibile. Quindi il problema è che la transizione verso nuove fonti di energia richiederà invece grandi quantitativi di energia, e questo le fonti rinnovabili di oggi non possono darceli, quindi dovremo convivere ancora a lungo con petrolio, carbone e gas naturale, che oggi coprono l'80% dei consumi mondiali di energia, e quindi sarebbe folle non pensare a come sfruttare meglio, anche con tecnologie ambientalmente migliori e che rendano quasi zero l'impatto di queste fonti, carbone, petrolio e gas, che altrimenti continueranno a dominare e quindi continueranno a inquinare. Quindi sfruttare meglio tutte le energie possibili. Nelle sue conclusioni lei si domanda che fare e come fare, e ce lo anticipa in un minuto. La prima cosa è che abbiamo bisogno veramente di coltivare una rivoluzione tecnologica in campo energetico, più di investire nelle cose che oggi abbiamo, penso ai pannelli fotovoltaici o alle pale eoliche, il campo dell'investimento vero, poi penso anche a un paese come l'Italia che ha perso tanti treni nella sua storia, è quello di investire in ricerca e sviluppo tecnologico, perché la partita delle tecnologie breakthrough, cioè delle tecnologie dirompenti che possono cambiare il futuro, io credo molto dell'energia solare per esempio, la partita è ancora aperta, non c'è ancora la tecnologia vincente, quella che può rivoluzionare il settore del solare come altri settori. In tutto il mondo però si sta facendo grande ricerca e si stanno impegnando grandi fondi nello sviluppo tecnologico di nuovi brevetti, di nuovi dispositivi. Ecco, invece noi ci limitiamo a fornire sussidi a chi installa pannelli fotovoltaici spesso comprati dai cinesi. Quindi la prima cosa da fare è dedicare i pochi fondi disponibili, pubblici o quelli privati che magari sono più grandi, veramente a puntare su chi ha idee molto innovative ed è in grado di far balenare uno sviluppo industriale anche su queste idee. La seconda gamba importantissima è l'efficienza energetica, ma non intesa soltanto come risparmio di energia, che riporta una concezione un po' cupa, no? Bisogna consumare meno. Dobbiamo anche consumare meno, ma semplicemente perché il nostro modello di consumi è folle. Penso ai SUV o alle grandi auto che girano per le nostre strade delle nostre città, però al di là di questo l'efficienza energetica porta con sé una rivoluzione industriale vera e propria. Si tratta di cambiare gli oggetti, gli elettrodomestici, i dispositivi, tutto quello che ci circonda, che è stato prodotto in un'epoca in cui il costo dell'energia non era la variabile determinante. E porto sempre l'esempio delle auto, dei motori a scoppio, delle auto che usiamo noi, che utilizzano grosso modo il 14% del contenuto energetico della benzina, solo il 14% per muoversi, oppure delle lampadine a incandescenza che utilizzano meno del 10% dell'energia elettrica che ricevono per illuminare. Ecco, quando si pensa all'efficienza energetica come a un processo industriale che deve portare a una catena immensa di nuovi prodotti che abbiano al centro della loro concezione la diminuzione del consumo di energia per fare le stesse cose che fanno oggi, illuminare, trasportare, muoversi, non parliamo più di risparmio, parliamo proprio di efficienza, creare una nuova industria. Ecco, non possiamo non spendere una parola sul nucleare, sappiamo tutto quanto è avvenuto negli ultimi mesi, le difficoltà e anche le scelte dei molti governi di rinunciare, tra cui quello tedesco, di rinunciare ovviamente lasciando spegnere le centrali attuali fino a quando potranno fornire energia, ma senza costruirne di nuova, di rinunciare all'energia nucleare. Quale sarà il futuro del nucleare, professor Maugeri? Ma io credo che il nucleare non si possa rinunciare, perché già risolvere il dilemma energetico del futuro è difficile senza nucleare, con il nucleare figuriamoci senza. Sul nucleare però ho una posizione abbastanza anomala. Io credo che il nucleare debba risolvere una serie di problemi per dare serenità all'opinione pubblica di gran parte del mondo. Non a caso si continua a fare come se niente fosse in molti paesi in via di sviluppo, in molti paesi a basso tasso di democrazia, ma laddove l'opinione pubblica è più attenta e più libera di esprimersi incontra grandi problemi. Fino a che non si risolveranno i problemi intrinseci di sicurezza del nucleare con argomenti convincenti, credo che il nucleare non è che si fermi. Entrerà in un limbo come entrò in un limbo dopo Chernobyl, dopodiché si riprenderà se arriveranno risposte. Certo dico una cosa, la mia posizione anomala è, io ce l'avevo al tempo in cui si discuteva di nucleare in Italia, e dicevo il nucleare è una cosa seria da trattare con grande serietà, con grande delicatezza, che si possono permettere paesi seri. Certamente l'Italia non è fra queste, cioè noi non riusciamo a fare la Salerno, Reggio Calabria, abbiamo problemi ogni volta che si fanno grandi opere pubbliche o non di qualità del calcestruzzo addirittura o di qualità di ciò che si impiega per fare le costruzioni, abbiamo organizzazioni malavitose che controllano le opere pubbliche, andare in queste condizioni, pensare soltanto di poter costruire una cosa delicatissima da gestire, da progettare, realizzare come delle centrali nucleari è semplicemente folle. Ringrazio, dottor Baugeri, con questa nota di amarezza in fondo sulla realtà italiana, una realtà che comunque ha anche dei lati positivi sul fronte delle possibilità di crescita e sulla ricerca tecnologica. In fondo l'Italia è stata una delle patrie dell'energia nucleare e le università italiane sono state sempre molto all'avanguardia in questo. In una battuta, una nota di ottimismo possiamo comunque darla. No, ma io, e questo, guardi, è questo il mio cruccio. In realtà, siccome la partita sull'energia del futuro è aperta, perché è ancora aperta la partita tecnologica sull'energia del futuro, e l'Italia, io l'ho sperimentato anche nella chimica, ha grandissimi ricercatori, ha grandissima intelligenza, grandissime teste, e tutto sommato la partita della ricerca e dello sviluppo tecnologico, anche come investimenti, richiede meno di tante altre cose. Però c'è un disinteresse totale, cioè tutti si riempiono a parole la bocca sulla ricerca, sull'innovazione, ma in realtà è difficilissimo fare ricerca e innovazione in Italia. Tant'è che i nostri migliori talenti, quando possono, se ne vanno all'estero a farla. È una stessa anche diretta, lei sta insegnando, ma all'Università di Harvard, dopo una lunga esperienza all'ENI, in posizione di prima fila, appunto come responsabile delle strategie di sviluppo di questa grande azienda italiana, che comunque è all'avanguardia nelle strategie energetiche. Grazie professor Baugeri di essere stato con noi. Ho parlato del libro Con tutta l'energia possibile, petrolio, nucleare, rinnovabili, i problemi e il futuro delle diverse fonti energetiche, edito da Sperling e Kufer. Sono 220 pagine, 17 euro per chi vuole sapere tutto, ma veramente tutto, sull'energia. Grazie e alla prossima puntata.